Horas registrando. Perché hai sbagliato tu o perché non registra proprio? Perché ho sbagliato io. Ok. Vuoi uccidere? No, no, tranquillo. Mi servi vivo, Luca, non ti uccido per questo. Il costo di stare tutta la notte qua. Michè, si è incantato un po' il video. Dove? Ah, lo stai rivedendo? No, si è incantato Dropbox, Docklet qua. Sopra Google l'antipi. Allora, vai Maria. Di nuovo. Sì, scusami. Dimmi quando sei pronto, eh? Vabbè, ma tu hai detto che sono a Roma? Tu hai detto che sono a Roma? No. Perfetto. Perché? No, niente. No, non l'ho detto, tranquilla. Dimmi quando posso andare. Vai, Vado. quando Allora, in collegamento telefonico abbiamo il responsabile marketing dell'aggregatura Manzoni Sport Andrea, Luca Di Bari. Allora, salve. Luca, ti chiedo subito le tue impressioni sulla partita di sabato, come hai visto la squadra che fortunatamente ha messo in cassa due punti importantissimi. Ah, prima di tutto un saluto a tutto il salotto di TSC Sport. Sì, sabato abbiamo fatto una grande prestazione, siamo ritornati finalmente alla vittoria, l'abbiamo voluta fino in fondo, i ragazzi ci hanno messo l'anima e abbiamo lottato affinché potessimo avere questi 3 punti che sono importantissimi per una salvezza. Diciamo tranquilla, no, perché alla fine ce la andremo a giocare, però veramente importanti questi punti e un grazie va sicuramente ai ragazzi che sono andati in campo. Come hai visto tu la prestazione di questi ragazzi che a tratti è parsa un po' altalenante? A volte ci mettevano il cuore, la forza, la grinta, e altre volte sembravano completamente assenti dal campo. Ma sicuramente la prestazione è stata altalenante. Per un motivo molto, secondo me, molto semplice. Non ci aspettavamo che il Casarano, che non aveva nulla da chiedere al campionato, sarebbe stato così determinato nella vittoria. Per carità, niente, niente da dire nei suoi confronti, anzi, un plauso a loro. E quindi abbiamo subito un contraccolpo psicologico nel primo set. Però ovviamente abbiamo riordinato le idee, abbiamo cercato di impostare il gioco pian piano, con semplicità, con colpi che abbiamo nel nostro repertorio e soprattutto con uno stato mentale abbastanza tranquillo, perché era quello che ci mancava da un po' di tempo, essere tranquilli. Siamo riusciti con tanti sacrifici, tanti punti magari persi per strada, però l'importante è che comunque ci siamo divertiti e che siamo riusciti a vincere. Personalmente dico grazie perché finalmente ho rivisto la grinatura che non vedevo dall'inizio del campionato. Possiamo dire quindi che il sogno di salvezza non sia ancora concluso, è ancora vivo in tutti voi, giusto? Ma in Cene Salvezza è vivo dall'inizio dell'anno. Questa squadra sapevamo che poteva far bene e ha avuto un momento di blackout. Siamo riusciti con il grande lavoro in palestra a livello tecnico e anche a livello mentale a superarlo, magari un po' in ritardo, però siamo riusciti, quello è l'importante. Abbiamo questo sogno che si chiama B2, rimanere in B2. Penso che il sogno mio personale e di tutta la dirigenza, ma il sogno anche dei ragazzi che lavorano in palestra giorno dopo giorno affinché appunto arrivino questi punti magici e si possa rimanere in B2, un campionato nazionale che comunque onora la piazza di Andria. Sarebbe poi una cosa spiacevole in 2 anni passare dalla gioia della promozione alla tristezza di una retrocessione. Questo non avverrà, sono sicuro al 100%. Allora, visto che oggi siamo in tema pagelle, prima di passare un po' all'analisi della partita di sabato prossimo, ti voglio chiedere un giudizio sulla prestazione della Grenatura di sabato contro il Casarano. Ma sicuramente una squadra che direi si è comportata molto molto bene. Ha avuto quel momento di blackout all'inizio, ripeto, abbiamo avuto voglia di vincere, abbiamo lottato fino alla fine, siamo riusciti a cercare di mettere in difficoltà un Casarano che si è rivelato molto molto forte, merito per quel quinto posto. È sicuramente una squadra che ha voluto vincere, quindi una squadra che secondo me si è comportata discretamente e con la determinazione giusta. Io direi abbastanza bene come giudizio. Cerchiamo di portare quello che di buono abbiamo fatto ora nelle prossime partite, quello importante. A questo proposito, appunto, la settimana prossima, sabato, la Grenatura sfiderà l'Ariano, che praticamente è all'ultimo posto della classifica, un po' come il Casarano, non ha più niente da chiedere a questo campionato perché ormai è retrocessa. Come bisognerà preparare, secondo te, questa partita? Ma sicuramente bisogna essere calmi, calmi perché questo è solamente un piccolo gradino per la scalata con il Martina, l'ultima giornata. L'Ariano non ha niente da chiedere, come hai detto benissimo, però ha sempre voglia di comunque far vedere che quei 2 punti sì, sono poco, però se la gioca sempre alla fine. Domenica scorsa ha vinto un altro set. Insomma, una squadra che non bisogna sottovalutarla. Il calendario, diciamo che con questa trasferta di Ariano ci ha voluto graziare rispetto alle nostre concorrenti che hanno incontrato Ariano all'inizio del campionato, però dobbiamo andare con i piedi di piombo, dobbiamo andare con la voglia giusta, la determinazione giusta e cercando di vincere assolutamente. E guadagnare quei 3 punti che ci rendono più tranquilli con la sfida contro il Martina, sfida salvezza. Ok, a proposito della sfida contro il Martina, ti chiedo di fare una sorta di appello ai cittadini affinché possano venire in massa per l'ultima partita, speriamo quella che sancisca la salvezza della Grenatura. Ecco, un appello affinché vengano in tanti al palazzetto per seguire questa squadra. Ma io un appello più che altro lo farei al campanilismo degli andriesi, alla voglia di essere città e esserlo anche per lo sport, per uno sport che non sia il calcio. La B2 è un campionato nazionale molto importante, un trampolino di lancio per questa associazione che da anni sta facendo anche del bene a livello non solo sportivo ma anche sociale e lo sta facendo anche per la città di Andria perché crede nella città. Io vorrei che le persone si avvicinassero alla pallavolo, anche solo per questa partita, in modo da riuscire a guadagnare quel nostro sogno di vedere il palazzetto gremito al punto giusto e soprattutto per dare carica ai nostri ragazzi per vincere fino alla fine. D'accordo Luca, ti ringrazio allora per questo tuo intervento al salotto di TSC Sport. Prego, prego, E ringrazio a ci tutti vediamo. voi e niente, un abbraccio da Roma. Ok, alla prossima allora. Ciao Luca. Arrivederci. Ciao.